24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ha toccato! No, non ha toccato! No, Ruggero! Se abbiamo ascoltato bene le comunicazioni fino adesso, da 2,5 metri non si passa dietro. Le cose te le puoi immaginare, però l'impatto poi emotivo è diverso ed è molto più forte quando vedi per la prima volta nello spazio un'alba o un tramonto. Parla del capitano Samantha Cristoforetti, un personaggio da libro di storia. Il motivo principale per cui siamo a bordo della stazione spaziale è fare ricerca scientifica, esperimenti. Parmitano sarà il primo italiano a passeggiare nello spazio. La visione della Terra è qualcosa di indescrivibile, ci vorrebbe un poeta per poterlo descrivere. L'Italia dallo spazio è proprio bella. I confini ce li siamo immaginati noi. Dallo spazio, quando uno osserva la nostra Terra, il nostro pianeta, il nostro mondo, questi confini non esistono. Verso l'infinito e oltre! Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'Agenzia Spaziale Italiana è nata nell'88, ma l'Italia ha una propria politica spaziale? Ma certo che sì, abbiamo addirittura un lanciatore che manda satelliti di medie dimensioni, abbiamo una partecipazione sostanziale alla stazione internazionale in cui mandiamo i nostri astronauti. Quindi l'abbiamo. Ecco, certo. Oltre che studiare l'universo, dallo spazio si può osservare la Terra per prevedere e prevenire anche i disastri ambientali? Ma certo, noi abbiamo questo sistema di satelliti radar che vedono attraverso le nuvole, vedono di giorno e di notte per monitorare proprio i fenomeni tipo gli smottamenti, gli sversamenti di petrolio in mare, la pesca di frodo, dove ci sono gli allagamenti. Quindi è uno strumento anche, come dire, di intelligence. Esattamente, ed è sempre più importante. Questo si integra con una serie di altri strumenti a cui noi accediamo tramite rapporti internazionali con altre agenzie. La Terra è osservata proprio minuziosamente. Per prevederne anche l'evoluzione climatica, per esempio. Ecco, oggi lo spazio però non è solo un luogo di ricerca, è anche un'importante opportunità economica per il mercato delle telecomunicazioni, prima di tutto della navigazione satellitare. L'Italia ne sta cogliendo le opportunità? Ma è proprio il compito dell'Agenzia Spaziale quello di aiutare le strategie, intervenendo anche finanziariamente, in ogni caso dando indicazioni politiche di senso politico strategico su come investire, dove investire. E l'Italia mi fa un esempio virtuoso? Ma per esempio si sta parlando adesso della banda larga, di come cercare di compensare le mancanze dove non può arrivare la fibra. Ecco, lo spazio può con i suoi satelliti compensare parzialmente e aiutare a realizzare un progetto per portare l'alta banda a tutti quanti i cittadini. Ecco, Luca Parmitano, Paolo Nespoli, Roberto Vittori, Samantha Cristoforetti, l'Italia è il paese europeo che ha ben 4 astronauti attivi in questo momento nel corpo astronautico dell'Agenzia Spaziale Europea. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo è il risultato di investimenti che datano da almeno 10 o 15 anni. L'Italia ha realizzato il 60% quasi della stazione spaziale internazionale, la parte abitata, e ha un accordo con gli Stati Uniti per far volare i propri astronauti in più oltre a quelli che possono volare grazie all'accordo con l'ESA. Avendo noi 2 canali abbiamo quindi un corpo più importante. Certo, ecco, ma nell'esplorazione spaziale, dottor Battiston, che tipo di rivalità c'è tra i paesi nello spazio? Perché si parla sempre solo della cooperazione, però in realtà si sa che c'è anche molta rivalità. Beh, diciamo, la rivalità ovviamente è chi mette per primo certe tecnologie che possono essere sfruttate commercialmente dalla propria industria o dalla propria difesa. Però ormai i progetti sono così costosi e così complessi che è necessaria la cooperazione. Esattamente. Senta, quindi è il costo che spinge comunque a collaborare. Assolutamente, sapendo che poi questo investimento genera dalle 3 alle 6 volte l'investimento fatto in termini di ritorni economici. Di ritorni di tecnologie, quindi di brevetti, eccetera. E di attività produttiva, perché certo, lo spazio si declina in tantissimi rivoli nella vita quotidiana. Cioè, mi fa degli esempi? Il più clamoroso, chiaramente, è essere guidati nel traffico dalla navigazione satellitare con tutti quanti, certo, abbiamo i nostri telefoni. Un domani sarà possibile osservare la Terra non solo di tanto in tanto ogni qualche mese, ma quotidianamente ogni minuto, quindi monitorare il traffico, il traffico aereo, il traffico delle navi, le attività produttive delle imprese che generano, non so, le ciminiere che fanno una quantità di fumo, si può misurare quanto inquinano, quanto producono, la quantità di cose che si possono fare è veramente limitata. Senta, ma India e Cina finiranno per collaborare col resto del mondo o restano autonome? Sono due situazioni diverse. La Cina è una superpotenza spaziale già oggi e l'India ci sta piano piano arrivando. E attualmente si stanno muovendo con logiche autonome. Qui in questo senso parlavo di rivalità, poi, perché lì naturalmente quell'autonomia porta anche a obiettivi diversi, a tecnologie diverse e a dei fallout diversi. Assolutamente. Per esempio la Cina ha costruito il suo sistema di navigazione. Alla fine ne avremo tre, quello europeo, anzi quattro, quello europeo, quello russo, quello cinese e naturalmente il GPS americano. Forse sarebbe stato possibile in un mondo ideale invece averne quattro, di averne uno solo più potente, però a questi livelli ancora non ci siamo arrivati. Senta, l'esperimento dell'AMS, cioè del rivelatore per l'antimateria installato sulla stazione spaziale che ospita appunto Samantha Cristoforetti, è appena stato protagonista di nuove osservazioni sulla cosiddetta materia oscura. A suo parere siamo di fronte a una nuova scoperta oppure è solo l'apertura di una finestra su un mistero? Guardi, la materia oscura è un mistero, forse il più grande mistero attualmente esistente nell'astrofisica, nella fisica contemporanea. Noi stiamo guardando l'ombra proiettata da questa materia oscura e chiaramente ne vediamo alcuni aspetti, non siamo ancora sicuri di che profilo e che figura essa abbia. Quello che l'AMS ha misurato osservando l'antimateria di tipo elettrone chiamata positroni, l'antimateria di tipo protone chiamata antiprotoni, fenomeni molto rari, fanno pensare che forse stiamo iniziando a capirci qualcosa, però il percorso è ancora lungo. Applausi di fronte ai fisici mondiali mentre Fabiola Gianotti dà i dati del bosone. Si tratta della particella determinante per capire l'universo. Il bosone di Higgs è entrato in azione un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Nobel per la fisica al bosone di Higgs, un riconoscimento atteso per una delle scoperte scientifiche più importanti nel campo della fisica. Think of this Higgs field as being like this universal field of snow. Immaginate un'infinita distesa di neve, un campo esteso lungo tutto lo spazio. Il campo di Higgs è come questo, che è fatto di fiocchi di neve. Allo stesso modo, il campo di Higgs è composto di piccoli quanti. Noi li chiamiamo bosoni di Higgs. Prima di questo centesimo di miliardesimo di secondo non sappiamo quello che è successo subito dopo il Big Bang. Comunque è il nostro dovere di continuare a cercare. Paola Catapano, giornalista scientifica responsabile della comunicazione del CERN di Ginevra. Dopo una pausa di circa 2 anni, al CERN è ripartito il più grande acceleratore di particelle del mondo, che nel 2012 ha consentito la scoperta del famoso bosone di Higgs, il bosone di Dio. Ecco, adesso cosa cercate? Adesso si cerca la prossima frontiera della fisica, si cerca che cosa è successo ancora prima, al momento del Big Bang. Per definizione non sappiamo troveremo. Se cercate non sapete. Esatto, ecco. In realtà ci sono delle ipotesi teoriche, però bisogna dire che la situazione è molto diversa rispetto a quella del bosone di Higgs, che era fondamentale per spiegare tutto quello che era stato scoperto fino a quel momento. Certo. Adesso siamo veramente davanti all'ignoto, a una finestra all'ignoto. Nuova. Senta, è la notizia della scorsa settimana, la scoperta di tracce di materia oscura, ossia la materia invisibile e misteriosa che costituisce il 25% dell'universo, così si pensa. No, noi speriamo di trovare la materia oscura. La scorsa settimana un esperimento che fra i tanti di quelli che la cercano, AMS ha annunciato un risultato molto, molto forte, un'evidenza molto forte, però non si può definire una scoperta. Allora, la materia oscura è una delle nostre prossime sfide. LHC cerca di ricostruirla in laboratorio, ci sono però esperimenti, in particolare rivelatori nello spazio, su telescopi, su satelliti, che cercano di osservare la materia oscura. Ecco, materia ma oscura... l'acceleratore del CERN ha un ruolo in questa ricerca misteriosa? Sì, LHC è uno delle grandi speranze dei cosmologi di cercare di confermare l'ipotesi di questa materia oscura, anzi uno degli strumenti meglio posizionati rispetto a quelli che osservano dallo spazio, perché potrebbe ricreare tracce di materia oscura. Ecco, ma perché la materia oscura è necessaria? Allora, la materia oscura è un'osservazione che si fa cosmologicamente. Ci sono galassie nell'universo, tutte le galassie che ruotano, e la loro gravità non giustifica il fatto che siano che restino assieme. La gravità di queste galassie non è sufficiente dal punto di vista di calcoli della fisica perché queste galassie rimangano assieme, non fuggano centrifugamente. Quindi deve esistere un'altra materia che noi non vediamo, appunto, e che invece ha questi effetti gravitazionali. Questa materia oscura, esatto, così detto, deve esistere, ma non possiamo vederla per definizione con gli strumenti elettromagnetici di oggi, perché non è, si chiama oscura, non si sente, non si vede, no, non emette nessun tipo di radiazione, forse in nessuna non c'è gamma dello spettro, no, non può non esserci perché gli effetti si vedono e si sentono, devia la luce di stelle vicine e appunto fa girare galassie che altrimenti non avrebbero la forza di farlo, e c'è addirittura una mappa di dove si trova questa materia oscura nello spazio. La difficoltà è proprio che è come se fossimo ciechi, insomma, diciamo. Siamo che sembra sul punto di rivelarsi la parte invisibile dell'universo, sì, che, ma non fa che seminare nuovi enigmi questa cosa? In realtà semina sempre nuovi indizi, è come se 10 anni fa avevamo un sospetto e oggi invece c'è una quasi certezza, c'è soltanto la difficoltà di osservarla correttamente. Senta, appunto, la macchina del CERN che voi avete costruito è la macchina più complessa mai costruita dall'uomo. La sua messa in funzione ha da una parte incuriosito moltissimo l'opinione pubblica, dall'altra però ha scatenato anche reazioni di timore, di paura. Perché la scienza fa ancora tanta paura? Io penso sia la paura dell'ignoto, le persone che non sanno, c'è molta gente che, a cui l'ignoto fa paura, agli scienziati piace l'ignoto, gli piace, certo, avventurarsi in quello che non sanno, alla gente curiosa in generale piace andare in un posto che non conoscono, certo, ma c'è tantissima gente che è impaurita dall'ignoto, e anche perché il fatto di essere veramente alla frontiera della conoscenza ci mette in una situazione quasi mistica rispetto a chi continua, non ha gli strumenti, certo, matematici per capire, certo, quello di cui stiamo parlando. Ma al CERN, no, prego, finisca. Parliamo di origini dell'universo, parliamo di cose che un po' confinano sia con la metafisica che con le stesse domande che si pone la religione, per cui persone che non hanno i mezzi intellettuali per capire il tipo di attività che si intraprende qui e come si intraprende, confondono, e c'è anche chi poi cavalca l'onda di questo, la maggior parte. In questo parte, senso, sì, c'è il timore. Ecco, ma al CERN avete mai ricevuto minacce? Sì, nel 2008, quando l'LHC è partito per la prima volta, ho ricevuto mail di minacce, perché avevo un ruolo nella operazione di restart in quanto commentatrice per la stampa di quello che stava succedendo, e arrivavano minacce da personaggi assolutamente al limite della follia, tipo cose Dio vi chiuderà per sempre, o farete fanatici, morire, insomma, l'universo. Sì. Fanatici, ah, fanatici, ma neanche, voglio dire, in America un terzo della popolazione è creazionista, e queste sono persone che hanno una vabbè, tendenza. Ma non è che ci sono, non è che è una cosa in contrasto quello che voi fate, anzi, cioè l'approfondimento della conoscenza non è alternativo all'esistenza di Dio. No, però c'è chi invece lo interpreta così e chi invece veramente per creduloneria cade in questi misticismi, fanatismi. Allora lei che ha la responsabilità della comunicazione, li faccia parlare con la Gianotti, che la pensa esattamente così. Sì, ma non avrebbe il tempo di gestire tutti questi passi. Va bene, grazie dottoressa Catapano. Grazie a voi. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Dunque, la nostra squadra di astronauti, per varie ragioni, come abbiamo sentito, è tra le più ricche di personale al mondo. E mentre si aspetta il ritorno di Samantha Cristoforetti il 14 di maggio, per capire quali emozioni si vivono lassù, Sara Tardelli ha intervistato Luca Parmitano. Luca Parmitano è stato 166 giorni nello spazio per la missione Volare ed è il primo astronauta italiano impegnato in attività extraveicolari. Luca Parmitano, ma c'è un'emozione, una sensazione che si avvicina a spiegare l'immensità dello spazio? È molto difficile andare a cercare una particolare emozione che descriva un qualcosa di così grande, di così incommensurabile. Le dimensioni di quello che si fa in orbita, ma comunque di quello che si osserva, di quello che si vive, sono al di là dell'umano, decisamente sovrumane. Sì, nello spazio si crede di più o di meno in Dio? Credo che siano due cose completamente distinte, perché il nostro istinto come esseri umani è di alzare gli occhi al cielo quando pensiamo al divino, quando pensiamo, quando pensiamo a Dio, ma in realtà io dico sempre che bisognerebbe cercare nell'altra direzione, nell'infinitamente piccolo, dentro di sé, per cui essere in orbita o essere a terra o in un futuro essere in un viaggio interplanetario non credo che debba fare alcuna differenza. Quando sei partito avevi una paura inconfessabile di qualcosa, di una cosa in particolare? Ma in realtà no, di fatto no, non avevo una paura particolare, un qualcosa che mi preoccupasse, no, in realtà no. L'avrai sentito tantissime volte. Io ti vorrei far risentire questo file. I feel a lot of water on the back of my head. Sento dell'acqua, molta acqua, dietro la mia testa, ma non penso provenga da dietro. Are you sweating? You working hard? È sudore? Il lavoro è troppo intenso? Sì, sto sudando. Mi sembra che ci sia davvero troppa acqua. Hi Chris and Luca. Ciao Chris e Luca. Stando a quanto ci dice Luca, sembra che ci sia dell'acqua nei suoi occhi e sembra che stia aumentando. Dobbiamo interrompere l'uscita extraveicolare. Quindi, mentre Luca rientra nell'airlock, daremo a Chris un piano per concludere il lavoro, per poi rientrare e raggiungere gli altri immediatamente. Il portellone è aperto. E nemmeno qui hai avuto paura? In quei momenti diciamo che la paura deve essere... Ne hai talmente tanta che come non ce l'avessi. No, deve essere tenuta sotto controllo, deve essere utilizzata come uno strumento. Non si può fare, non possiamo permetterci che si trasformi in panico. Il panico del gatto illuminato dai fari della macchina che si immobilizza nel mezzo alla strada, ecco, non possiamo permettere che questo accada, per cui il modo in cui noi ci addestriamo, quello che deriva da anni e anni di esperienza, è fatto in modo che nel momento in cui abbiamo un problema, nel momento in cui ci troviamo di fronte a una situazione di avaria, il pensiero va automaticamente nella direzione della risoluzione. Certo. Come affrontare il problema, come risolvere la situazione, come salvarci la vita in certi casi. Ma tu sei tornato senza neanche vedere dove, per modo di dire, passami il termine, mettevi i piedi, cioè sei tornato a memoria, giusto? Sì, nella seconda fase dell'avaria, quando l'acqua poi mi ha coperto gli occhi, il naso e mi è arrivata fino alle orecchie, in quella fase lì il sole era già tramontato, ero al buio e quindi i fari che abbiamo, le luci che abbiamo nel casco non bastavano a illuminare il percorso, per cui sono tornato a memoria. Mamma mia, la cosa pazzesca è che lì per lì non ti credevano. Non si può dire, eh? No, non è che non mi credevano, ma semplicemente non si capiva, nessuno capiva quale potesse essere la sorgente del problema. Era un problema che non era stato pensato, non era mai stato non è stato mai neanche pensato come possibile problema. Tra andare a 200 all'ora in autostrada e andare nello spazio, dove si rischia di più? Dov'è più pericoloso? Sicuramente è più pericoloso andare veloci in autostrada. Io tra l'altro sono un autista molto prudente, quindi non rischio sicuramente in questi ambienti. E diciamo, tra un Alonso e te, chi è che se la rischia di più? Sono due ambienti professionali. Molto estremi anche, no? Certamente. Possiamo fare un paragone. Alonso, nel mezzo della sua gara, non può permettersi di perdere il controllo, deve stare concentrato in ogni momento della gara, deve pensare in anticipo sulla macchina. Se la macchina va a 200 all'ora, il suo cervello deve andare a 300 all'ora, deve essere sempre uno step avanti. E il grande professionista della corsa, della gara di Formula 1 si vede in questo. Per noi è molto simile, noi siamo in un ambiente estremamente rischioso, è un ambiente che ci uccide in un istante se non siamo attenti, se non siamo preparati, per cui